E prendiamo in mano, cari amici, il nostro libro, il libro che libro delle nostre catechesi, intitolato Il Falsario, la lotta quotidiana contro Satana. Ecco, vorrei sottolineare appunto di questo libro che ho scritto il fatto che è un libro contro Satana, cioè vuole smascherare il maligno, e incominciamo subito col capitolo quinto, nel quale abbiamo detto nel capitolo quarto abbiamo cercato di cogliere la natura di Satana. Abbiamo visto come ha avuto origine Satana nel capitolo terzo. Ha avuto origine Satana in quanto da angelo buono, creato da Dio, ha pervertito se stesso rifiutando Dio, rifiutando la sottomissione a Dio, rifiutando l'adorazione di Dio, volendo essere Dio al posto di Dio. E poi abbiamo visto quindi l'origine del maligno. E Dio non ha creato il male, ma il male si è generato dalla libertà della creatura che rifiuta Dio. Quindi il male è legato alla libertà finita, alla libertà degli angeli, alla libertà degli uomini. Mentre poi, quando abbiamo incominciato a cercare di comprendere chi è Satana nella sua natura pervertita, abbiamo detto che la scrittura ce lo presenta come l'avversario di Dio e il nemico dell'uomo. La parola stessa Satana vuol dire avversario, la parola ebraica avversario, l'avversario di Dio. La parola invece greca diavolo, diabolos, dal verbo greco diaballein, mettersi di traverso, colui che ostacola, indica appunto la natura di Satana non solo come odio contro Dio, ma anche come geloso dell'uomo, come gelosa dell'uomo, in quanto cerca di ostacolare i piani di misericordia di Dio nei confronti dell'uomo. Quindi Satana vuol dire l'avversario di Dio, diavolo vuol dire colui che ostacola i piani di misericordia di Dio nei confronti dell'uomo. E quindi, se volessimo definire Satana nella sua essenza di natura pervertita, dobbiamo usare queste due espressioni, di avversario strenuo, infaticabile, indomabile di Dio, quindi un odio implacabile nei confronti di Dio, e una gelosia omicida nei confronti dell'uomo. Quindi si comprende in questa luce il titolo del capitolo quinto, che è nel mio libro, siamo a pagina 32. Il capitolo quinto è intitolato Il nemico dell'uomo. Questa espressione è molto importante, cari amici, perché voi sapete che molte persone ritengono Satana un benefattore dell'uomo, e infatti chiedono a Satana i favori, perché lui stesso si presenta in questa veste, cioè si presenta nella veste del benefattore dell'uomo. Infatti non si presentò in questa veste ad Adamo ed Eva, si presentò nella veste del consigliere che dava i consigli a loro favore: se ne mangerete diventerete come Dio. Quindi si presenta come colui che tutela gli interessi dell'uomo, si presenta come colui che dà la felicità all'uomo, si presenta come colui che insegna all'uomo la via della realizzazione di se stesso, la via della felicità. Infatti non si presenta forse a Gesù Satana come colui che gli offre tutti i regni di questo mondo, ti offre la felicità. Quindi si presenta questo nemico dell'uomo sotto le vesti di falso benefattore. E quindi, da questo punto di vista, è di una pericolosità straordinaria. Perché quando in casa tua entra una persona che si presenta come amica, e tu gli dai tutta la fiducia, perché pensi che sia un amico, poi in realtà trama le tue spalle, tu comprendi qual è la pericolosità della situazione, perché hai introdotto in casa tua un nemico e lo credi come un amico. Questo è tipico del demonio. Il demonio si presenta come Giuda, che dà il bacio dell'amicizia. In realtà ti sta consegnando ai nemici, ti sta distruggendo. La sua grande astuzia consiste proprio in questo, nel presentarsi come un tuo benefattore, in realtà il tuo distruttore. Veniamo allora, naturalmente tutto questo che noi diciamo, lo diciamo alla luce della parola di Dio, perché soltanto la parola di Dio ci dice chi è il maligno. Allora vediamo come è strutturato questo capitolo quinto, qui nel nostro libro. Dunque il primo paragrafo che faremo questa mattina è il falso benefattore, poi il secondo paragrafo, faremo un paragrafo al giorno più o meno, l'invidia omicida, poi il terzo paragrafo l'arte del distruggere, cioè Satana seduce per distruggere. Quarto, ad immagine di Satana, cioè Satana vuole trasformare l'uomo in sua immagine, vuol farne un demonio incarnato, un suo servitore, un suo schiavo, un suo strumento di perdizione. Questo è il vero atteggiarsi di Satana nei confronti dell'uomo. Si presenta come un falso malfattore, come un falso benefattore, in realtà è divorato da una invidia omicida, ti seduce per distruggerti e per far di te una sua immagine, ad immagine della sua perdizione. Questo è il comportamento di Satana nei confronti dell'uomo e disgraziati coloro che si lasciano da lui sedurre. Allora noi vediamo adesso questo primo aspetto così pericoloso del maligno, che è quello con cui si presenta col volto del falso benefattore. E d'altra parte nella tentazione Satana si presenta sempre come un falso benefattore, perché nella tentazione Satana ti presenta sempre qualcosa di buono, in realtà è il male sotto colore di bene, e si presenta a te come si presenta l'esca ai pesci, sembra che ci sia qualcosa di buono da mangiare, qualcosa di appetibile, e Satana ti presenta sempre la via del male come sommamente appetibile. In realtà è come la mela di Biancaneve, cioè contiene il veleno, e mangiando tu rimani ingannato. D'altra parte la grande parabola del paradiso terrestre, questo racconto che ci dà in termini molto profondissimi, anche se i simboli sono difficili da capire, questo dramma che si svolse all'origine della storia dell'umanità, questa grande parabola. Dico una parabola perché evidentemente non perché non abbia contenuto storico, ma perché ogni parola, ogni immagine ha dei significati profondissimi, no? Lo si vede, no? Qual è stata la tentazione nel proporre ai due progenitori che erano già felici qualcosa di al di là di qualsiasi intendimento umano, cioè essere come Dio. Qual è stato il risultato? Che hanno perso tutto. Ecco perché è un falso benefattore, perché poi tu alla fine, seguendolo, ti rendi conto che hai perso tutto, innanzitutto hai perso Dio. Dunque vediamo allora, adesso leggiamo e commentiamo questo primo paragrafo del quinto capitolo, ed è intitolato il primo paragrafo Il falso benefattore, il falso benefattore. Perché ci sono delle persone che ritengono che Satana possa farti dei piaceri, vanno dai maghi, sanno che sono maghi satanici, per ottenere la guarigione, come se le guarigioni sataniche fossero guarigioni vere, no? Per non parlare poi di peggio, quando addirittura promettono a Satana venerazione, adorazione in cambio di denaro e di potere. Quindi è tutto un ambito. Questo di menzogna che va smascherato proprio che i figli della luce aprono bene gli occhi su questo falso benefattore. Ma guardate che poi non è detto che Satana si presenti sempre lui sotto le forme di falso benefattore. In genere Satana agisce attraverso i suoi seguaci, no? Attraverso i suoi, quelli che sono passati dalla sua parte, no? Loro stessi si presenteranno sotto la forma di grandi benefattori. Chi di voi si ricorda dell'anticristo di Benson, no? L'anticristo di Benson, la cui tesi di fondo è biblica, no? Cioè è biblica la sua tesi di fondo, perché perché l'anticristo si presenterà come il grande benefattore dell'umanità, quindi come colui che proporrà agli uomini di risolvere i problemi dell'umanità senza bisogno di Dio. Sarà la grande impostura, come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, no? E allora, secondo, queste cose le abbiamo lungamente spiegate nel mio libro Il Dies Irae, l'anticristo non sarà una persona cattiva, no, dal punto di vista dell'opinione pubblica, cioè sarà perverso dentro. Dentro sarà perverso, perché vuole sostituirsi a Dio, vuole sostituirsi a Cristo, vuole eliminare dalla faccia della terra il cristianesimo, no? Ma all'apparenza si presenta come il grande benefattore dell'umanità. Dice Benson, come anche Soloviov, che l'anticristo sarà un grande pacifista, cioè risolverà per sempre, una volta per sempre, il problema della guerra. Perché? Perché porterà la pace all'umanità. L'anticristo sarà un grande naturalista, un grande animalista, un grande tutto, cioè sarà un grande benefattore dell'umanità. Mi viene in mente la battuta che mette in bocca l'anticristo Soloviov, no? Dice: Cristo vi ha promesso la croce, vi ha promesso il dolore, io vi prometto la felicità qui su questa terra. Ecco il falso benefattore. Ora, naturalmente l'anticristo, una fase storica che ci sarà, sarà la fine del mondo, questa fase storica dell'anticristo, no? Però nella vita quotidiana, cari amici, vorrei ricordarvi che molte volte Satana si presenta a voi sotto la forma di falsi amici, di falsi appoggi, di falsi benefattori, no? Che vi promettono denaro, che vi promettono questo, che vi promettono quello. In realtà sono falsi benefattori che vi comprano con poco per poi disporre di voi come vogliono. E soprattutto vi trascinano sulla via del male. Ecco dunque come bisogna essere molto attenti nella vita concreta, dai falsi amici, dai falsi benefattori, come è facile che essi vi trascinino sulla via del male. Vi comprano. Tutti coloro che nella vita vi comprano, distogliendovi con questo dalla virtù, dalla via del bene, distogliendovi da Dio, cari amici, questi sono, appunto, sono coloro che, come dice Santa Caterina da Siena, svolgono l'ufficio del demonio, cioè agiscono in rappresentanza del demonio. Vi comprano, vi influiscono su di voi con la loro falsa amicizia, con i loro falsi appoggi. È il mondo che vi seduce e vi compra. E come è pericoloso questo, perché se non siamo capaci di dire di no, entriamo in questo ingranaggio con cui appunto Mammona corrompe le anime. Perciò, quando si parla di Satana come falso benefattore, non immaginatevi che lui si presenti a voi direttamente così come si è presentato a Cristo offrendogli i regni di questo mondo, oppure come avviene in certe persone che per avere successo, per avere carriera, vendono l'anima a Satana. Ma sapete che più delle volte Satana si presenta a voi come falso benefattore attraverso i falsi amici, i falsi benefattori, i quali vi corrompono, vi comprano. Per cui voi, per avere la loro amicizia, per avere i loro appoggi, siete disposti anche a declinare dalla via del bene. Allora, di questi falsi benefattori è piena la nostra giornata. Per cui bisogna essere sempre molto vigilanti, cari amici. Ve l'ho detto più di una volta, che la vita è una lotta nella quale c'è in palio la salvezza eterna della nostra anima. Bisogna stare attenti alle offerte del falsario. Ti offro la carriera politica. Diventerai la prima persona o una delle più grandi persone politiche di questa terra se mi vendi l'anima. E dopo? Vediamo dunque, questi sono, per fare un esempio, ma oggi è pieno di queste forme di seduzione. è una seduzione a 360 gradi, che si ripete continuamente e che miete innumerevoli anime. Innumerevoli anime. Il falso benefattore con i falsi benefici miete innumerevoli anime, le compra. Satana è un grande compratore di anime e fa affari d'oro, le compra con due soldi. Mentre Cristo per comprarsi le anime ha dovuto versare il suo sangue, Satana le compra con un paio di dollari o con molto di meno molte volte. Col suo sterco compra il mondo. Bisogna stare molto attenti. Vediamo dunque questo paragrafo, cari amici. Satana è ostile a Dio, scrivo, e a tutto ciò che è di Dio. Il suo odio contro l'uomo, che è il capolavoro della creazione divina, è testimoniato da Gesù stesso quando lo chiama omicida fin dal principio. Giovanni 8,44. Quindi Satana è smascherato da Cristo, non è un benefattore dell'uomo. È omicida, cioè ti vuole assassinare, così come ha fatto con Adamo ed Eva, omicida fin dal principio. Eppure la sua astuzia nel coprire le sue intenzioni perverse è talmente grande che alcuni lo considerano un benefattore dell'umanità. Sotto questa veste, infatti, si manifesta nel momento della tentazione. Nel momento della tentazione Satana ti offre sempre la felicità, lui ti offre il potere, la carriera, il piacere, il denaro, il successo, la considerazione, tutto quello che vuoi, ti offre tutto in cambio della tua anima. Ecco il falso benefattore, vuole la tua anima per distruggere, per farla a immagine della sua perdizione. E quelli che abboccano sono tantissimi, cari amici. Come d'altra parte dice Gesù, la via larga, molti sono quelli che la percorrono. Satana, quando si avvicina, ha sempre qualcosa in mano da offrirti. Ha sempre il regalo in mano, eh? Per lui è sempre Natale. Cioè, a Natale si scambiano i regali. Lui si avvicina sempre a te con il regalo in mano. Quando Satana si avvicina, ha sempre qualcosa in mano da offrirti. Egli è il più grande venditore di merce falsa che esista. Studia la tua fame, guarda, vedi, cioè, analizza a fondo ciò che tu desideri di più. Studia la tua fame, poi ti presenta il cibo più allettante, proprio quello che volevi tu. Vuoi avere ricchezze? Ti prospetta il denaro facile. Vuoi successo? Ecco che ti indica la scorciatoia sicura. Egli conosce la fame di felicità che tormenta l'uomo ed è abilissimo nel mostrarsi come l'unico che la può soddisfare. D'altra parte, cari amici, quando analizzeremo le tentazioni di Gesù nel deserto, vedremo come questo sia vero. Ma siccome ognuno di noi ha una sua fame particolare, perché c'è una fame nell'uomo che noi chiamiamo fame di mondo, no? E che è il suo egoismo, la fame di mondo. Poi però questa fame di mondo per i singoli uomini si concretizza, c'è chi ha la fame del potere, chi ha la fame del sesso, chi ha la fame del denaro, ognuno ha le sue fami, no? Ognuno vuole il suo piatto. Satana è abilissimo nel cucinarti il piatto che fa proprio per te e te lo presenta appetitosissimo. Si presenta come l'unico che può soddisfare la tua fame. Ecco in che cosa consiste la sua veste di benefattore. Sono io che ti rendo felice, dice Satana, non Dio. Io ti rendo felice, non Dio. Ed è impressionante come l'astuta serpe riesca a ingannare persone anche intelligenti e colte con una facilità che lascia sbigottiti. Anzi, l'essere intelligente e colte vuol dire proprio un bel niente. Cucina tutti con piacere. Ecco, qui mi sono lasciato andare una piccola confidenza che credo che sia utile specialmente per i ragazzi. Mi permetto di raccontare a riguardo un fatto verissimo, che mi ha talmente traumatizzato che quando ci penso mi vengono i brividi ancora adesso. Mi permetto di raccontare a riguardo un fatto al quale non crederei se non l'avessi vissuto personalmente. Avevo incontrato dopo molti anni una ragazza che aveva frequentato l'oratorio fino alle soglie dell'università, ma che poi si era allontanata per motivo di studio e professionali. Mi disse che in tutti quegli anni aveva perso la fede ed era diventata atea. Volle approfondire il discorso della fede con lei, fino a quando mi confidò di essere tentata di vendere l'anima a Satana per sfondare nella carriera. Questo per me fu uno shock. Cioè, mi hai tenuto testa fino adesso dicendo che Dio non c'è, che sei atea, poi arriva a confidarmi, in un momento evidentemente c'è il tocco della grazia, in quel momento lì c'è il tocco della grazia, arriva a confidarmi che è tentata di vendere l'anima a Satana per riuscire a sfondare in una carriera dove non riusciva a sfondare. Ecco qua. Capito? Dov'è l'ateismo? Altro che ateismo. Satanismo. Altro che ateismo. Diceva di non credere in Dio e poi alla fin fine arriva a confidarmi che era tentata di vendere l'anima a Satana per fare carriera. Avete visto, cari amici, cosa c'è sotto l'ateismo? Cosa c'è sotto l'ateismo? Come lavora a fondo l'eterno ingannatore? Come lavora a fondo l'eterno ingannatore? È incredibile. Come cucina le persone anche colte e intelligenti. Compresi in quel momento il sottile lavoro che l'abile falsario aveva compiuto nei confronti di quell'anima. Dopo averle rubato Dio e la preghiera, le aveva prospettato la carriera come un miraggio da raggiungere a tutti i costi. Una volta che quel desiderio, cioè di riuscire, aveva conquistato l'anima, uccidendo tutti gli altri valori, ecco che lui si era presentato come l'unico che potesse aiutarla a conseguirlo. Prima ti uccide Dio, dopo si presenta lui come il tuo Dio, che ti soddisfa veramente quello che tu vuoi. E io in quell'occasione dovetti constatare, con amara meraviglia, che mentre alcuni teologi mettevano in dubbio l'esistenza di Satana, egli, nell'ombra, comprava le anime dei cosiddetti atei. Pensate come arriva a scavare nel cuore dell'uomo la perfida serpe. Ad Adamo, Satana si esibisce come colui che svela all'uomo il segreto per diventare come Dio. Se ne mangerete, diventerete come Dio. Ecco come si presenta, come colui che consiglia all'uomo il modo per essere felice. Ti consiglia disinteressatamente, lo faccio solo per te, giusto perché sei tu. Guardate questa immagine di Satana come colui che dà i buoni consigli, è abbastanza diffusa, eh? Difatti molti lo ascoltano, non si spiegherebbe diversamente come in quanti lo ascoltano. Li sa dar molto bene, è molto camuffato. A Cristo si presenta come colui che offre la soluzione del problema del vivere, di che queste pietre diventino pane, e che può dare all'uomo una gloria e un potere sconfinati. Tutto questo vi darò se tu mi adorerai. Se ci pensi bene, attenti cari amici, se ci pensi bene, il tentatore non ti propone mai la croce. La via che ti indica è sempre quella più facile e più larga. Egli non cessa di sibilarti, la serpe sibila, egli non cessa di sibilarti all'orecchio che i comandamenti di Dio sono superati e ti convince che devi godere fino in fondo di quest'unica vita, assaporandone ogni istante che ti viene concesso. Ecco, pensate, cari amici, quanti maestri che hanno imparato dal maestro. Lui è il maestro sublime, che ti dice che i comandamenti sono superati, che Dio è superato e che la vera arte di godere fino in fondo di questa vita Lui insegna questo, pensate quanti maestri, per esempio attraverso la televisione, i giornali, la cultura, insegnano proprio questo, che devi goderti fino in fondo la vita, che Dio non c'è in tanto. Goditi fino in fondo quest'unica vita e cerca di assaporare ogni istante che ti viene concesso. Lui è il grande regista di questa dottrina che viene insegnata universalmente oggi. Oggi qual è l'insegnamento, a parte la Chiesa, l'insegnamento del mondo qual è? L'insegnamento che tu senti quando accendi la televisione qual è? È questo. I comandamenti di Dio sono superati, goditi fino in fondo quest'unica vita e assaporane ogni istante che ti viene concesso. Satana, l'eternamente infelice, non ha ritegno di presentarsi agli uomini come dispensatore di felicità. Essi abboccano come pesci all'amo. Ma una volta che, commettendo il peccato, sono entrati sotto il suo dominio, si rendono conto del tremendo inganno. Si illudevano di essere felici. Ora gemono sotto il giogo opprimente della disperazione e non sarà facile liberarsene. I pesci intrappolati dal maligno che hanno boccato l'amo fanno fatica poi a liberarsi. Guardate che per un pesce liberarsi dall'amo non è mica una cosa facile, cari amici. Stiamo attenti a non abboccare. Non è una cosa facile per un pesce liberarsi dall'amo. E quando tu lo vedi dalle loro facce, no, poveretti, fanno tanta pena. Ecco perché la Madonna, la Regina della Pace, ci dice a Međugorje: sacrificatevi per la salvezza eterna delle anime, perché poi staccare i pesci dall'amo ce ne vuole. Sarà perché sono con la bocca nell'amo, poveri disgraziati, ma non sorridono mai. Hanno i volti tristi e invece di sorridere sghignazzano. Ecco. Questa è la felicità che offre Satana, sghignazzamenti. Si illudevano di essere felici. Ora gemono sotto il giogo opprimente della disperazione e la coprono con lo sghignazzamento. E non sarà facile liberarsene. Vede come inganna. Come inganna con i falsi benefici, con le false felicità. Anche Gesù offre la felicità, cari amici. Quante volte nei Vangeli si parla di pace e di gioia, anche nel Nuovo Testamento. Anche Gesù offre la felicità, ma non come merce a basso prezzo. Il maligno ha buon gioco nel convincere gli stolti che la via di Dio è per i bigotti. Egli ti insinua che chi segue Gesù non si gode la vita. Tu però puoi chiedere a uno che ha seguito Dio se si è pentito di averlo fatto. Domanda poi a chi ha creduto alle promesse del tentatore se è veramente contento della sua vita. Satana vuole comprarti con due soldi.